prigioni diventano adolescenti difficili, adulti ritardati, vecchi rincoglioniti, che ascoltano la radio dire che il mondo cambia, non cambia un cazzo però. Guarda, sta tornando il sole. Assoluta immobilità. Non so.